E siamo grati a Dio per predicatori, ministri che vengono da altre parti del mondo, in questo caso dall'Australia, per benedirci. Allora, visto che c'è stato tanto sforzo da parte sua di venire qui per benedire noi, mettiamoci tutto lo sforzo noi per ascoltare e ricevere tutto quello che il Signore ha da darci e anche accoglierlo con un applauso un po' più forte e sentito, eh? Great expectation. Thank you. For letting me come and speak and preach to you today. Grazie per avermi concesso di essere qui con voi e predicare la parola a voi questa mattina. It's a privilege and I'm very humbled. As Mirko said, Italian parents, mum's calabresi, dad's abruzzesi. E come Mirko ha già accennato, sono di origini italiane, mamma calabrese, papà abruzzese. They migrated to Australia after World War II. E sono migrati in Australia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Però porto molta vergogna alla mia famiglia perché non parlo l'italiano. Sorry. E quindi scusatemi. But I was raised Catholic back in Australia. I was raised a Catholic. E sono cresciuto cattolico nella Chiesa Cattolica in Australia. Became a Christian at the age of 19. E ho incontrato il Signore e sono diventato credente all'età di 19 anni. Found Jesus. Jesus was real to me, and I was always worried about my parents. Would they become Christians? Lì ho incontrato la fede in Cristo, sono diventato un seguace di Cristo e la mia preoccupazione da quel momento in poi è stata: i miei genitori seguiranno mai Cristo? And I had the privilege only 5-6 years ago to baptize my mum. Now that I'm a pastor and dad comes to church as well. E 6 anni fa ho avuto il grandissimo privilegio di poter, da pastore, battezzare mia mamma e anche mio papà adesso sta frequentando la chiesa. So again, very honored, and I think the same spirit that is in me in Australia is the same spirit that is in you here in Italy. E la cosa meravigliosa dello stare insieme è che possiamo riconoscere che lo stesso spirito che è con noi in Australia è lo stesso spirito che è qui oggi in mezzo a noi. Lodi a Dio per questo. Shall we start? Yes, absolutely. I want to start by telling a story. E vorrei iniziare raccontandovi una storia about how they would catch monkeys in Africa and maybe in Southeast Asia they would catch monkeys. Vorrei raccontarvi una storia di come catturavano le scimmie in Africa o nel sud-est asiatico. They would have a little pot, clay pot that was stuck in the ground, and inside the pot was maybe banana or nut. Facevano così, avevano un contenitore di creta immerso, comunque sotterrato nel terreno con la bocca accessibile, e all'interno del vaso mettevano della frutta, una banana, quello che è. And the monkey would put the hand in the jar to get the fruit or the nuts, but to not take out, the hand was too big and it would be stuck. E la scimmia appunto ovviamente voleva prendere la frutta, quindi andava lì, metteva la mano dentro e riempiva la mano di frutta, però riempiendo la mano di frutta la mano era troppo grande adesso per uscire dalla bocca del vaso e quindi rimaneva incastrata. So the monkey was stuck. To let go, had to let go of the fruit and go. E per liberarsi, l'unica cosa che la scimmia doveva fare è lasciare andare la frutta o i semi e liberarsi. But the monkey keep hands in, the hunters would come and throw the net and the monkey would be trapped. Ma la scimmia era così avida che non lasciava andare la frutta o i semi e quindi i cacciatori venivano poi con la rete e la gettavano sulla scimmia catturandola. So all the monkey needed to do for freedom was to let go. L'unica cosa che la scimmia doveva fare per liberarsi di nuovo era solo lasciare andare la frutta o il bene. And so I want to ask you the question this morning. E quindi la domanda che ci vorrei fare stamattina is God asking you to let go of something? cosa il Signore stamattina ti sta chiedendo di lasciare andare. We sang a song about no longer slaves, no longer under bondage, but sometimes we still hold on to things. E abbiamo parlato, abbiamo cantato del non essere più schiavi, del non essere più schiavi del peccato grazie al suo sangue. Però a volte ci sono cose che non lasciamo andare che ci mantengono in schiavitù. What do you need to surrender? What is God asking you to let go of to have full life? Che cosa il Signore ti sta chiedendo di lasciare andare per avere una vita piena? Jesus talks a lot about letting go of things, of surrendering his life or your life to him. Gesù spesso ha parlato del arrendere la propria vita, del lasciare andare a lui le cose. There's one story I really love about the rich young ruler. E c'è una storia in particolar modo che amo ed è quella del giovane ricco, no? Ricordate? The young ruler said to Jesus, "How do I get to heaven?" E il giovane ricco si avvicina a Gesù e dice: "Che cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli?" Jesus says you need to keep all the commandments. E Gesù dice devi osservare tutti i comandamenti. And the rich young ruler said, "I've done that. Since a child, I kept all the commandments." E il giovane ricco gli risponde: "Ho fatto tutto questo, ho seguito tutti i comandamenti." And he was telling the truth, but Jesus could see his heart. E in effetti stava dicendo la verità, però Gesù ha guardato oltre perché riusciva a leggere il suo cuore. And so Jesus looks into his eyes and says, "You sell everything you have, give it to the poor, and come follow me." E per questo gli dice, guardandolo negli occhi, "Vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e seguimi." You see, the rich young ruler had his hand in the jar. Vedete, il giovane ricco aveva la sua mano nel vaso. And the sad bit of the story, e la cosa triste della storia, it says that the rich young ruler went away sad. È che c'è scritto che il giovane ricco si allontanò con tristezza. Because he didn't let go of what's in the jar. Perché non era capace, non era in grado di lasciare andare ciò che teneva stretto nel vaso. Is there something, even right now, the Holy Spirit is saying, "Let go of this, it's no good for you, surrender it." E magari lo Spirito Santo anche in questo momento ti sta dicendo, lascia andare, perché non è una cosa buona da tenere. You think disciples, when Jesus comes to them, he says, "Come, follow me." E pensiamo ai discepoli, per esempio. Gesù è andato ai discepoli e ha detto: "Venite e seguitemi." Unbelievable. They let go and follow Jesus. La cosa incredibile di questa storia è che c'è scritto immediatamente lasciarono e seguirono Cristo. They gave up everything. They were not afraid or scared. They let go and follow Jesus. Pietro e Andrea hanno lasciato ogni cosa, le reti, senza riserve, hanno seguito Cristo. There's another story about Zacchaeus. E un'altra storia è quella di Zaccheo, ricordate? I like Zacchaeus because he's like me and John Luca. E amo Zaccheo perché è come me e come Gianluca, no? Era bassino. But he was a tax collector. No one liked him. He was hated and despised. Era un esattore delle tasse, quindi era odiato da tutti. He was a traitor in his people's eyes. Era un traditore agli occhi dei giudei. And so he was probably very lonely and had no friends. But he hears about Jesus was coming to his village. E quindi molto probabilmente era solo e triste. E qui Gesù viene nel suo villaggio. And he wanted to see Jesus. If only I can see Jesus. E si dice, se solo potessi vedere Gesù, no? Zaccheo, se solo potessi vedere Gesù. And so there's lots of people, but he finds it. He climbs up the tree and he can see Jesus coming. E quindi a causa della folla sale su un albero e vede Gesù arrivare. And Jesus is walking and he stops right at the tree where Zacchaeus is. E Gesù, mentre cammina, si ferma proprio davanti all'albero dove è Zaccheo. And again, he looks into Zacchaeus' eyes. E di nuovo guarda Zaccheo negli occhi. And he knows his name. And he says, "Zacchaeus." E conosce il suo nome perché dice: "Zaccheo, scendi." You know, they say that the most favorite sound a person can hear is the sound of their own name. E ricerca dice che il suono più dolce che una persona può ascoltare è proprio il suono del proprio nome. And Zacchaeus hears his name from the lips of Jesus. E Zaccheo sente il suo nome dalle labbra di Cristo. And so Jesus invites himself over for lunch. He would do that a lot. E Gesù si autoinvita a pranzo, quindi lo faceva spesso Gesù. And we hear that they have lunch and Zacchaeus lets go of everything in the jar and says, I will follow you, Jesus. E sappiamo che poi lì a pranzo Zaccheo è in grado di lasciare ogni cosa per seguire Cristo. So we have a choice. Quindi abbiamo una scelta da fare. Do we hold on what's in the jar? Manteniamo ciò che abbiamo stretto nel vaso? Or let go and have life. O lasciamo andare per trovare vita. I want to tell you how we can have life. How we can focus on Jesus and let go of what's in the jar. E vorrei condividere con voi come possiamo focalizzarci sempre più su Cristo, lasciare andare le cose che dobbiamo fare per incontrare la vita. Because it's go of the jar once. You become a Christian, yes, but it's day in and day out you have to let go. Perché non lasciamo andare solo una volta quando rimettiamo la nostra vita nelle mani di Gesù, ma è un quotidiano e quotidianamente lasciare andare cose che dobbiamo lasciare andare per seguire Cristo. So let's have a look, Hebrews chapter 12. E quindi vorrei leggere con voi alcuni versetti dal capitolo 12 di Ebrei. 1-4. Dal verso 1 al verso 4. Therefore we are surrounded by such a great cloud. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, that hinders and the sin that so easily entangles, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, and let us run with perseverance, e corriamo, the race marked out for us. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Let us fix our eyes, fissando lo sguardo on Jesus, su Gesù, the author and the perfecter of our faith, colui che crea la fede e la rende perfetta, who for the joy set before him endured the cross, per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce, scorning its shame and sat down at the right hand of the throne of God, disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considered him who endured such opposition from sinful men. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. So you will not grow weary and lose heart. Affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. So in there we have just three or four things that we can focus on to help us not hold on to what's in the jar. E in questi versi troviamo due o tre cose che ci aiutano a non mantenere le cose che abbiamo nel vaso. The first one, la prima, it says is throw off everything that hinders. C'è scritto deponiamo ogni peso che ci limita o ci impedisce. So this means things that weigh us down. Queste sono le cose che ci appesantiscono. The Greek means to run naked with no clothes on, that you are free, you have no burdens. E letteralmente nel greco la parola qui è correre nudi, cioè praticamente senza nessun impedimento, liberi. That we do not, some things are not sinful, but they still stop us from running. Quindi magari non sono cose necessariamente peccaminose, non necessariamente un peccato, ma sono cose che ci rallentano, che ci appesantiscono. What are they in your life? Quali sono nella tua vita le cose che ti appesantiscono? You know the Holy Spirit even now may be saying not sinful but not good. E forse lo Spirito Santo anche in questo momento ti sta suggerendo al tuo cuore, non è peccato, però non ti aiuta, non ti fa bene. Throw it off. He says, throw it off, run free. Lascia stare, lascia andare per correre più libero. That's the throw off anything that's slowing you down. Quindi weighing you down. Okay. Do you want me to start again? Volete che inizi da capo? So the first one is to throw off all weight. E quindi la prima cosa è lasciare andare qualsiasi peso. Then there's a warning to stay away from the sin that entangles. E poi c'è un avvertimento di stare lontano dal peccato che ci avvolge. Picture you swimming and seaweed coming to drown you. Ora immaginate un po' che state nuotando in mare aperto e ci sono le alghe che vi avvolgono, no? That's what sin wants to do. It's not good for you. It wants to pull you down. E questo è il peccato, ti vuole avvolgere e tirare nell'abisso. On the outside it may look good like the banana and the nut. Dall'esterno potrebbe apparire appetitoso come un frutto, come una banana. But it wants to pull you down. Ma quello che fa poi effettivamente è tirarti giù. I saw a video on YouTube. Ho visto un video su YouTube. Of an eagle that was flying and it saw a fish in the lake. Ed era un'aquila che sorvolava un lago, ha visto un pesce. It went down and boom, got the fish. Plana quest'aquila e quindi acchiappa il pesce. And then it was flap, flap, flap, keep going for a long time. E quindi poi inizia a sbattere le ali per risalire. And then you see the fish come up and it's too big. E mentre l'aquila emerge anche il pesce. Il pesce si vede, è troppo grande. And the eagle realized if he could not pull it, too heavy. E l'aquila si rende conto, non riesco a sollevarlo questo pesce, è troppo grande. So the eagle then tried to let go of the fish. E quindi poi l'aquila cerca di lasciare andare il pesce dagli artigli. But its claws were trapped in the fish. It was connected, could not let go. Ma gli artigli erano incastrati o troppo addentro nel pesce. Flapping and flapping, and to the point it died too much. E ha sbattuto per così tanto tempo le ali che poi l'aquila è morta, non ce l'ha fatta, esausta. Don't show your kids that video. Non fate vedere questo video ai vostri figli, But that's like sin. Sin pulls you in. Ma è una perfetta immagine del peccato, perché il peccato ci attrae. Looks good, looks attractive, but it wants to drown you. All'apparenza sembra buono, sembra appetitoso, però poi ci fa annegare. So throw off anything that weighs you down. Quindi dobbiamo lasciare andare di qualsiasi peso che ci appesantisce. Get rid of the sin that entangles you. Dobbiamo deporre, mettere via il peccato che facilmente ci fa affogare. And then it says run with perseverance. This word agonos means agony, run hard. E poi la terza cosa è corriamo con perseveranza. E la parola perseveranza dal greco è la parola agonos, dalla quale noi traiamo agonia, quindi correre con una certa intensità, ecco. It's sometimes not easy. We have to keep moving, keep running. A volte non è facile la corsa e dobbiamo mantenere quella gara, quella perseveranza. And the offer is very clear. It says the race marked out for you. E l'autore qui è molto chiaro al chiamarci a correre la gara preposta per noi, la nostra gara. And sometimes as Christians we can make the mistake of comparing, looking, oh Mico or John Luca, their race is different than mine. Però a volte come credenti commettiamo l'errore di guardare all'altro, a Mirko, a Gianluca, all'altro, e iniziare a comparare le gare. No, do run your own race. Jesus has a race for you that is different to the person next to you. Non commettere quell'errore, perché la tua gara è la tua gara ed è diversa da chi ti sta a fianco. And that's okay. Whatever that race God is calling you to run, You run that race. E va benissimo, tu corri la tua gara che il Signore ha chiamato te di correre. So when your race is finished, he can say, well done, good and faithful servant. Così quando la gara è finita, il Signore potrà dirti, ben fatto, fedele, giusto servo. And then the last bit of this verse, very important. Fix your eyes on Jesus. E poi l'ultima parte, l'ultimo pezzo di questo, di questi versi sono fissare lo sguardo su Gesù. Not fix your eyes on what's in the jar. Non fissare il tuo sguardo su ciò che c'è nel vaso, but on Jesus. Ma su Cristo Gesù. Do you know that it's actually impossible? Sapete che è virtualmente impossibile to walk in a straight line if you are blindfolded. Camminare su una linea retta se si è bendati. Here's a picture, I think, up here on the screen, maybe. C'è una delle immagini, sì, ce l'abbiamo. No, not that one. L'altra. This one. Questa. If you have blindfolded over distance, you start to walk in circles. Se siamo bendati, dopo una certa distanza, anziché camminare dritti, inizieremo a girare in cerchio. You need a focus point, something to see, something to fix your eyes on. Abbiamo bisogno di un punto focale per andare dritti, qualcosa su cui fissare il nostro sguardo. Otherwise you go around in circles. E altrimenti inizieremo a girarci intorno. Question, what are you fixing your eyes on? Domanda, su cosa stai fissando il tuo sguardo? Is it Jesus? È Cristo Gesù? Or maybe it's something that's not helpful. O è qualcos'altro che non aiuta per niente. Maybe not bad things, but you fix your eyes on it: career, money, relationships, status. Di nuovo, forse non cose necessariamente sbagliate, ma che stiamo fissando come la carriera, una relazione, soldi. But the author says, focus on Jesus, focus on Jesus. Ma la parola ci dice, focalizziamo il nostro sguardo su Gesù, focalizziamo il nostro sguardo su Gesù. Here's the picture, the other picture. L'altra immagine invece, of my little boy. Questo è il mio figlio, il più piccolo. Is he cute? Ask him if they're cute. È carino o no? He takes after his mom. E assomiglia alla mamma, penso. But this is him in a running race. You know running race? Sì, e qui sta facendo una gara di corsa. When they're little kids and they're running, most kids get distracted. E quando i bimbi di questa età corrono una gara, si distraggono, no? Look around, the butterfly, waving the parents. Iniziano a guardarsi intorno, la farfallina o ai genitori che lo salutano, no? But I tell my boy, you focus on the finish line. Look at the finish line. Ma io ho detto a mio figlio, tu focalizzati sulla linea di fine. At the end of each finish line, they had a chair for the kids to run and sit. E alla fine di ogni pista, in questo caso, mettono una sedia dove i bambini sono chiamati a sedersi, ad andarsi a sedere. Quindi chi arriva prima vince. So they start the race. E quindi iniziano la gara. And my boy Josiah, he was looking straight at the chair. E mio figlio Josiah guardava dritto alla sedia alla fine della gara. All the other kids were looking around. Tutti gli altri bimbi si guardavano in giro, distratti. I forgot to tell Josiah to stop at the chair. E però ho dimenticato di dire a Josiah di fermarsi alla sedia. Straight through the chair. E quindi lui è corso proprio attraverso la sedia. But number one. Ma però è arrivato primo. You see his eyes? Vedete i suoi occhi? He's looking, fixing, focusing. Lui sta guardando, ha fissato i suoi occhi sul traguardo. That's what this author is saying. We fix our eyes on Jesus. E questo è ciò che l'autore sta dicendo, di fissare il nostro sguardo su Cristo. The last one, and we finish. Concludo con questo. I thought they would clap. Pensavo che avreste applaudito. In Australia, we have lots of beaches. In Australia ci sono molte spiagge, no? Big waves, grandi onde, lots of water moving, tanta acqua che si muove. And we go to the beach a lot in summer. E in estate ovviamente andiamo alla spiaggia molto spesso. But sometimes when you go into the water, a volte però quando entriamo in acqua, the current moves. le correnti si muovono velocemente. So you go in here, but you end up over there. Quindi magari entri in acqua qui, però poi vai a finire a tutt'altra parte. So whenever I go with my family and my children, quindi ogni qualvolta che vado in spiaggia con la mia famiglia e i miei bambini, we put our clothes, our bag on the beach. Mettiamo i nostri, le nostre cose, le borse, i vestiti sulla spiaggia. And I tell the kids that's the reference point. You stay in line with our stuff. E dico ai miei figli, questo è il nostro punto di riferimento. Quando siete in acqua, allineatevi sempre a questo insieme di cose. Because sometimes it's very easy to know. The water is rough, you go in. Perché a volte è molto facile, l'acqua è molto, la corrente è molto forte, quindi tutto a un tratto via. Whoop. Whoop. But other times, very subtle. Ma altre volte è meno ovvia. Just slowly, slowly, and then you look up. Perché la corrente è molto più lenta e quindi poi a un tratto ti guardi intorno e and you see, oh, how far I've come. Realizzi guardando al punto fisso, wow, mi sono allontanato di così tanto. And so in life sometimes that happens. A volte nella nostra vita è così. We have to come back to the reference point. Dobbiamo tornare al punto di riferimento. Keep looking up. What is the reference point? Jesus. Continuate ad alzare il vostro sguardo su qual è il nostro punto di riferimento, Cristo Gesù. No reference point, you get lost. Se non manteniamo questo punto di riferimento, ci perderemo. Praying, reading the Bible, coming to church, connecting with other Christians, reference point. E il pregare, il leggere la parola, il venire in chiesa, il stare con credenti, mantiene il nostro sguardo sul punto fisso, Cristo. Very important, otherwise hand gets stuck in the jar. Say that again. It's very important, otherwise your hand will stay in the jar. Questo è molto importante, altrimenti la vostra mano rimarrà incastrata nel vaso. Here's the question. La domanda. Is Jesus, the Holy Spirit, saying now to let go of something? Lo Spirito Santo in questo momento ti sta chiedendo di lasciare andare qualcosa. Is Jesus inviting you come back to the reference point? Il Signore Gesù ti sta invitando a tornare al punto di focalizzazione. Our God is a God of second chances. Il nostro Dio è sempre un Dio di seconde opportunità. And then more chances. E di tante altre opportunità. Isn't that beautiful? Non è una cosa meravigliosa? You're gonna pray now, brother. Adesso preghiamo. Sì. Ah, sì, sì. Ci alziamo in piedi. Possiamo prendere un minuto proprio per riflettere su questi principi della parola del Signore che lo Spirito Santo ha voluto ricordarci. Cosa stai mantenendo che devi lasciare andare? Qualcosa non necessariamente sbagliato, ma che appesantisce, che distrae, che ruba da quello che sei chiamato ad essere, da quello che sei stato salvato ad essere. Che cosa devi lasciare andare in questo momento, anche se non sai neanche come fare? Rivolgiti al tuo Signore e digli: Signore, penso che questo è da lasciare andare, ma non so come fare, aiutami tu. Riporta il tuo sguardo su Cristo Gesù, che può ogni cosa. Come abbiamo cantato, come abbiamo confessato, Lui può ogni cosa. Non ti distrarre in questo momento, ma fissa il tuo sguardo su Cristo Gesù. Con i nostri occhi chiusi. Fissa il tuo sguardo su Cristo Gesù. Immaginalo qui davanti a te. Splendente. Luminoso più di mille soli. E guardalo, ammiralo, fissa il tuo sguardo su di lui, riposa in lui in questo momento e lascia andare, lascia andare, lascia andare. Cristo Gesù, siamo davanti a te come Chiesa e riconosciamo il profondo bisogno che abbiamo di te. Libera in questo momento, libera attraverso la tua potenza. E io so che questa mattina nel nostro mezzo ci sono persone che hanno difficoltà con l'essere schiavi, schiavi forse della pornografia, schiavi forse dell'intrattenimento, schiavi di cose che non vanno bene. La prima cosa che il Signore ci chiede questa mattina è di confessarlo. Solo se ci rendiamo conto di essere schiavi, abbiamo modo di chiedere al Salvatore di spezzare quelle catene. Per questo con coraggio, con fede, lascia andare. Riconosci che sei schiavo questa mattina e chiedi liberazione al tuo Signore. Se c'è qualsiasi cosa che è un peso sulle tue spalle, che sai che sta limitando la tua corsa, o se c'è qualsiasi peccato che sai ti sta rendendo schiavo, allora confessalo a Cristo Gesù, alza le tue mani, qualsiasi cosa questa sia, confessalo con fede davanti al Signore che guarda ogni cuore e chiedi aiuto, grida aiuto. Questa è un'occasione che il Signore ci sta dando, è quella seconda, terza, millesima, non importa, alza il tuo grido a Dio e chiedi liberazione, perché è un Dio che è venuto per liberare gli schiavi e la sua chiamata è Cristo Gesù. Noi veniamo davanti a te e ci arrendiamo, Signore, ci arrendiamo a te e alla forza della tua potenza. Riconoscendo, Signore, che ci sono pesi sulle nostre spalle, riconoscendo che ci sono peccati che così facilmente ci vogliono tirare giù nell'abisso, nel nome del tuo santo e potente nome che libera, che guarisce, che salva, Signore, noi gridiamo a te. E in questo momento chiediamo, vieni, libera, vieni, Signore, togli questi pesi, vieni, Signore, togli ogni schiavitù, Signore, dacci la forza della fede per essere liberi nel nome di Cristo Gesù. Padre, veniamo davanti a te riconoscendo che senza di te non siamo nulla, ma che con te possiamo ogni cosa, e per questo confessiamo e deponiamo. Forza, Chiesa, confessa, deponi in questo momento. Se hai bisogno di alzare la tua preghiera, se hai bisogno di alzare le tue mani, fallo in questo momento. Non perdere questa occasione che il Signore ci ha voluto dare attraverso il fratello Anthony questa mattina. Non perdere questa occasione. Alziamo le nostre preghiere. Forza, Chiesa. Amen.